Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sport su 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tempesta, due ore di sole, due ore di battaglie, due ore senza amore, due ore per trovare l'uscita di sicurezza, due per riconquistare un tuo stato di grazia. Scusate il fiatone, sto facendo allenamento. Che... Due ore di dolore, due ore di passione, due ore di cacio e pepe, due ore di minestrone. Pierluigi, ti licenzio. Era bella due ore di cacio e pepe, due ore di minestrone. Meglio due ore di cacio e pepe, devo dire. Tanto martedì faremo due ore, martedì e mercoledì due ore di prosecco. Da Vinitaly, ma sicuramente da lunedì due ore, dalle 14 alle 16 tutti convocati. Sono un po' affaticato, mi sto allenando duro. Passione centro sud, passione centro sud, centro nord, nord est, all the world, yes. Senza banco, senza banco, in grande rispetto per tutti. Quando facciamo passione Torino che andiamo a trovare Crosetti? Molto volentieri, ma Torino prima una città. C'è un programma televisivo che si chiama Masterpiece, ma è un programma media, insomma, voglio dire, noi siamo trasversali, naturalmente. Ma no, voglio dire, Masterpiece, c'è un'immagine di Torino che veramente hanno reso giustizia alla bellezza di una città che è un po' sottovalutata, no? Perché poi fuori da Piemonte, magari uno pensa a una città industriale, no? È anche quello, ovviamente. Non dimenticherò mai le parole di tanti anni fa che mi disse Cristiano Gatti, mio amico e collega che tutti conosciamo e che saluto con affetto. Torino e Roma sono due città che non ci vado neanche coi carabinieri. Invece no. Ciao Maurizio Crosetti. Buongiorno, beh, che dire, avete più che ragione, anche se per la verità io sono a Copenaghen e vi do questo dolore. Cosa fai lì? Illusione di diludendo, come direte. Che stai facendo? No. Sono stato, questa domanda mi rende felice, vuol dire che hai letto con grandissima attenzione la Repubblica questa mattina e avrai sicuramente apprezzato il mio reportage sullo zoo che macella le giraffe e i leoni. Sì, sì, io grazie della stima. Un pezzo bellissimo, lo zoo di Copenaghen. Io la prima cosa, sono usato per un principio anche un po' di tachiardia, no? Dicendo cosa ha scritto Crosetti, e ho letto... scherzando, Cross, sai che ti voglio bene, non l'ho letto neanche io, ma la Juventus l'hai vista o eri allo zoo? La Juventus l'ho vista in streaming rubando, perché ieri sera davano a Copenaghen in televisione davano la pallamano femminile e l'hockey senza voler offendere nessuno, però ho capito perché, se nella storia degli ultimi 100 anni il calcio ha avuto un po' più di presa popolare della pallamano femminile dell'hockey su ghiaccio, ripeto, senza offendere la sensibilità di nessuno, una ragione c'è. Sì. No, ma la ragione c'è, noi dobbiamo proprio possedere, dobbiamo fare una battaglia sindacale. Su cosa, Piero? No, ci sono ancora degli intellettuali, sono pochi, sono sempre meno, degli intellettuali di questi qui un po' cupi, malinconici, che continuano a pensare al calcio come all'oppio dei poveri. È una cosa, io più giro il mondo, l'Europa, e ringrazio Dio per avere questa possibilità, più mi rendo conto che è veramente uno straordinario fenomeno di aggregazione mondiale, piace a tutti, le persone cominciano a guardare non soltanto il calcio della propria squadra, del proprio paese, ma guardano il calcio internazionale. È un fenomeno che confina con la cultura, che confina con l'arte. Poi chiaramente ci sono le porcate, le miserie, gli eccessi economici, cioè, per carità, tutta fenomeno, roba qui, ma come dici tu, è il fenomeno più pop che esiste, è una cosa meravigliosa. Poi c'è anche il provincialismo, ci sono anche le polemiche italiane, c'è Marotta? Sì, c'è Marotta. Ma mi ha stupito Marotta. Aspetta, sapete perché adesso posso farlo sentire così? Posso farlo sentire così? Contestualizziamo Marotta. Io mi levo la macchina alla camicia. Sì. Bravo. Sicuramente la sconfitta l'abbiamo digerita velocemente. Che ci ha dato fastidio un po' l'eccessiva euforia dimostrata dal Napoli, che in fin dei conti ha battuto la Juventus in una partita di campionato che vale solo 3 punti. Sembrava che fosse l'euforia tipica di una squadra di provincia quando, giocando contro una grande, chiaramente le squadre di provincia hanno obiettivi principali come la salvezza, giocando contro una grande vincono una partita. Mi sembra che questa sia molto riduttivo per una città come Napoli, che ha un blasone, una storia, e quindi non si può limitare semplicemente a vincere una partita nel contesto di un campionato. Replica di oggi su Twitter di Luigi De Laurentiis: Marotta, grande ignorante, confonde il cuore di una città unica come Napoli per una euforia da provincia. Cosa stavi dicendo, Maurizio Crosetti? Stavo dicendo due cose. La prima è che provinciale è un complimento meraviglioso e dovrebbe essere questo, perché l'Italia è soprattutto provincia, anzi il mondo è provincia, e non bisogna dirlo in termini spregiativi o riduttivi. E poi mi pare che la carriera di Giuseppe Marotta, ottima persona e valido dirigente, non si sia sviluppata al Real Madrid per proseguire al Chelsea e chiudersi al Manchester United. È arrivato alla Juve con un bel po' di gavette in provincia, quindi di che parla? Senti, Maurizio, no, ma poi dimmi. Posso dire una cosa? Sì, puoi dirla, certo. Posso anche essere d'accordo nella sostanza, cioè se un mio amico del Napoli mi dicesse: ma abbiamo esagerato nei festeggiamenti, io direi: ma no, avete esagerato, godetevela. Però è chiaro che battere la Juve per quelle che sono le ambizioni del Napoli deve diventare la normalità, cioè la possibilità di poterla battere, no? Ma quindi, sai, in questo momento della sostanza del discorso di Marotta ci sta pure. Quello che non capisco è perché Marotta a distanza di 4 giorni dica questa cosa. No, non lo capisco, cioè, neanche io, ma secondo me ha più senso il discorso di Conte, che dice: vabbè, ma a me fa piacere quando vedi che gli avversari esultano in quel modo, vedi che danno la vita per giocare contro di noi e per batterci, vuol dire che siamo temuti, che siamo rispettati, che siamo forti. Questo è un bellissimo discorso. Esatto. E la Juve da questo punto di vista è abituata da una vita, no? Nel senso che è la squadra più amata, ma anche chiaramente più temuta e di più odiata d'Italia. Quindi questa cosa qui fa parte del DNA della Juve, e devo dire che i Juventini veri, quindi, questa cosa godono, no? Dell'essere della rivalità con il resto, ma hanno ragione, ma è giusto, ma è anche il senso il cuore del pop di cui stiamo parlando. Maurizio, che rai l'aereo? Ah, c'è tempo, possiamo stare. Posso averti altri 5 minuti? Ma non li ignori due ore. Dove sei lunedì sera? Dove sei lunedì sera? Lunedì sera dove sono? Non so, Pardo chiede dove sei lunedì sera. Non lo so, dipende da Pierluigi. Fondamentalmente dipende da lui. No, era così, stavo vagliando. Cioè, stai facendo le convocazioni per Tiki-Taka a tutti i convocati, vergognati. Martedì sarò, per quanto non fregherà ovviamente nulla nessuno, martedì sarò a Madrid per Atletico Barcellona, lunedì. Ci vediamo anche lì, anche però io Pardo. Ho finito lì, e quindi adesso ho chiesto lo spostamento della partita all'UEFA, perché ho finito lì con tutti i convocati, quindi probabilmente la partita, per tu non lo sai ancora, andrà spostata al venerdì, proprio per consentire... Perfetto, vengo anch'io a Vinitaly. Delirio totale. Tutti convocati. Senti, però mi devi dire una verità. Nell'intervallo Conte si è arrabbiato tanto con voi. sì, si può succedere così. Quando una cosa che non vanno bene, l'allenatore si incazza. È normale, ma è importante che alla fine abbiamo vinto. Asamoah questo, torniamo in diretta da questo meraviglioso manicomio virtuale che sta diventando tutti convocati. Pierluigi Pardo non mi ricordo dov'è, Maurizio Crosetti che invece è a Copenaghen per zoo. No, non è per zoo, cioè così sembra quasi degeneratorio, no? No, ma sto preparando una cosa ancora più gustosa dello zoo, non posso dirvelo ovviamente, sennò poi ci pensa anche il Corriere della Sera. Vabbè, nei prossimi giorni avrete una storia danese, diciamo, che riguarda il sesso, non vi dico altro, il sesso. Ho fatto un interrail che è cominciato in Danimarca, avevo forse 16 anni. Tutti noi abbiamo fatto l'interrail che è cominciato da Danimarca, Pierluigi, dai. Mi ricordo 24 ore di tempesta ormonale, proprio, sì. Me lo ricordo precisamente. A un certo punto con le biciclette inseguivamo, cioè delle cose anche al limite, secondo me, del penale. Ma una roba, a Copenaghen era, forse in realtà era un po' un mito di 20 anni fa, nel senso che poi ci sono tornato recentemente, insomma, sì, bella. Beh, mi hanno parlato molto di Pierluigi, sì. C'è chi si ricorda assolutamente, tra l'altro questa è la terra di, ho appena sentito la pubblicità di Infomaniacs di Lars von Trier, non sarà mica un caso. No, e tra l'altro c'è una pubblicità, non so se l'avete vista, ma sarà molto virale, di un'agenzia di viaggi che era Do It for Denmark, cioè fatelo per la Danimarca. Taci, non svelare, sono lì appunto per questo, taci. Sei sulla notizia, maledetto. Non volevo. non puoi bruciare così, c'è la scena via. Licenziato da Repubblica, torna, va, trova un posto a Radio 24. Ce la siamo bruciata così, ce la siamo bruciata così. Ma non l'ho fatta più. Ma, diciamo Marotta, quindi dai. Marotta bene. Anche lui pare che anche lui faccia parte del prossimo cast di Lars von Trier, perché ha queste uscite molto ormonali e piacciono molto al regista danese. Allora, Marotta si è montato la testa in perfetto stile Juve, fa le prediche in casa altrui, franco interista di Mantova. Io da napoletano godo nel sentire rosicare Marotta. Michele, come funziona? Aurelio De Laurentiis, non è Aurelio in questo caso ma Luigi, può dire ciò che vuole su chiunque ma nessuno può parlare del Napoli, scrive Marco. Ne sono sicuro, alla Juve fanno corsi di stronzaggine. Andrea da Trento. Invece ieri c'era un'altra storia, no Maurizio? Quella del dialogo tra John El Khan e il ragazzino. Ma sì, il ragazzino, il piccolo Tohir. Il piccolo Tohir, perché l'Inter perde sempre? Ma non lo so, ma speriamo che continui a farlo. Cosa c'è di male in questo? Il Khan attacca l'Inter. Bang, grosso così, Ma no, è una battuta, dai, non esageriamo. Forse non una signora battuta, ma una battuta che si fa a un bambino. Nella quale non trovo assolutamente niente di male, non ci riesco proprio. Ma sul campo qualcuno mi deve spiegare come una squadra affaticata nel campionato italiano, che è quello dei pelandroni, no? Prandelli, Dixit, possa arrivare, andare a Lione di quella squadra che fu, alla maglietta e il nome, basta, perché mi sembra sia abbastanza depresso. Però vincere alla fine trovando il gol senza il suo più forte attaccante, cioè Tevez, che era infortunato, con un difensore eccetera, e poi sarebbe una squadra con la lingua fuori, a me non sembra. No, ha un po' la lingua fuori, ma per il Lione intero basta sicuramente una mezza Juve, tre quarti di Juve, che però rimane sempre un esercizio magistrale di attenzione, di presenza in campo, di cinismo, insomma tutte qualità che surclassano la concorrenza, quindi le semifinali io credo che siano sicuramente acquisite. E vedremo contro chi la Juve sarà sorteggiata, e sarà una grande partita perché rimangono grandi squadre. E poi il 14 maggio la finale allo Juventus Stadium, tra l'altro sarà spostata perché la sera del mio compleanno, quindi adesso Marotta pare che la sposterà il 15 o l'anticiperà il 13, perché io francamente avrei da fare quella sera. Oppure faremo una seconda versione di Vin Italy per a Torino, eccezionalmente, per far coincidere le due cose, anzi le tre cose. Una serata di bollicine. Sì, io sono più per il fermo, ma comunque siamo al delirio di onnipotenza. Dovete torniamo seri. A me ieri è piaciuta. Mi è sembrata una squadra che, senza investire, diciamo, ancora il 110% di quello che ha tutto sull'Europa League, però comunque andare in campo con un'idea e con una motivazione. Quindi secondo me ha fatto un po' di turnover negli uomini, ma non ha fatto turnover nelle idee, nei concetti, ed è già qualcosa. È quello che ha fatto il Chelsea l'anno scorso. Se andate a riguardare tutto il percorso di avvicinamento alla finale di Amsterdam contro il Benfica, ha avuto una serie di passaggi contro lo Steaua, contro il Basilea, gestiti, perché il turnover è una logica importante per un club che parte dalla Champions e che ha altri obiettivi. L'Europa League è al tempo stesso una piccola sfiga all'inizio e poi una grande opportunità. Quindi Ma il turnover lo devi fare in campionato, Pierre. Una squadra come la Juventus il turnover deve farlo nel weekend. Farle vincere altre due o tre partite, e poi secondo me a quel punto sarà chiarissimo. Ho detto per iscritto che la Juve vince il campionato, non ho discusso. Sì, no, piuttosto possiamo discutere sul fatto posso capire che se da Roma vince a Cagliari, poi lunedì sera alle ore 18:57 Conte entra in campo con 5 punti di vantaggio sulla seconda e lo scontro diretto, e magari ancora giustamente insomma un po' di adrenalina, un po' di focus, no? Mancano 7 partite, sono 21 punti. Ti ripeto, io sostengo questa tesi da una vita, quindi sarebbe paradossale se fossi io adesso a dire no, ma è chiaro Pierluigi. Non è riaperto, però secondo me devi andare avanti nelle due cose come ha fatto il Chelsea, che era fuori dalla lotta per lo scudetto, ma comunque ha finito bene il campionato anche appunto in Premier League. Ieri mi è piaciuto l'atteggiamento al ritorno, ci vuole una poi possiamo chiuso subito e basta. Possiamo discutere sul fatto che Conte un po' di provincialismo ce l'abbia, perché ad esempio è lui stesso ad autoaccorciarsi le rotazioni. Ieri la Juventus è stata migliore con Giovinco e Vucinic, ma semplicemente perché hanno benzina, non giocano mai e dunque di benzina ne hanno. Però da Maurizio Crosetti, prima di lasciarlo andare alle sue inchieste a fondo, dico rosa? O meglio occhio? Rosso. Mamma rosso mia, passione. Non vedo l'ora. Quando esce? Adesso pure questo. Compra Repubblica con fede. Ma la leggo tutti i giorni. Gioia tutti i giorni, sarai premiato. E sarai premiato. Per colpa mia non credo che uscirà più. Però mi dispiace tanto. Io sono Repubblica, lo leggo spesso. Ho anche fatto un commento perché la nuova grafica mi piaceva, ma il ponte era diventato un po' piccolo. Mi pare che hanno già corretto. La potenza di Pardo. Sì, assolutamente. No, c'era bisogno. L'abbiamo corretto al volo. Un milione di segnalazioni, penso. Allora, fammi dire un'ultima cosa a Crosetti, perché volevo la sua opinione, visto che siamo un po' in questo argomento, su questa deriva borderline. Chi è che è caduto? No, io ci sono. Ah, caduto Pardo, figuriamoci. Eccolo lì. No, volevo un tuo commento invece su questa tratta dei minori che ha bloccato il mercato del Barcellona. Adesso vediamo, ricorso. Io penso che finirà tra luce e vino, anche se non su scala italiana, ma su scala internazionale. Però a questo, sullo stesso argomento, pare ci siano nel mirino le altre due di Madrid, cioè Real e Atletico. È un problema gigantesco, è vero, sono d'accordo, anch'io penso che il Barcellona avrà sicuramente una deroga e alla fine una multa è soltanto questa, però esiste un fenomeno mondiale, è una tratta di ragazzini vera, addirittura molti di questi bambini vengono dati in falso affidamento a personaggi di oscuri che invece di occuparsi di loro formalmente, per quanto riguarda la legge e la burocrazia, mettono una firma e poi però questo è semplicemente l'escamotage per fare in modo che questi ragazzini possano giocare a pallone sperando che diventino vacche da mungere. Più delle volte però devono smettere. E si collega questo anche con questo fenomeno nuovo dei calciatori di proprietà di fondi di investimento, di multinazionali, non si capisce di chi siano i ragazzi, i giocatori, non si capisce quando comincino a essere di quelle persone di cui non si sa di chi siano, non so se mi sono spiegato, è tutto un grande mistero e bisogna intervenire, perché altro che Bosman, altro che calciatore che torna padrone del proprio destino non solo sportivo. Pure Bartomeu è stato molto duro, è stato molto duro Bartomeu, nessuno si azzardi a toccare la Masia. Nessuno si azzardi, questo modello è stato ammirato e lodato in tutto il mondo, nessuno ci mette le mani addosso, è stato durissimo nella sua repina. Beh, il modello non si discute, nel senso che la Masia è un luogo effettivamente dove si impara il calcio, qui il problema è capire come vengono reclutati i ragazzini che poi lì vengono educati, cioè se tu hai anche il miglior collegio del mondo ma lo riempi con ragazzini presi in mezzo alla strada in maniera dubbia, sono sicuro che non fa così Barcellona. Il punto è politico, ci si può interrogare, anche perché c'è tutta un'immagine legata al Barcellona di un club eticamente impeccabile, un club buono, il club dell'Unicef. Poi vabbè, quest'anno gli Emirati e Qatar hanno sfrattato la scritta Unicef nel retro della maglietta, diciamo in zona sedere, no? C'è anche un simbolismo in questo, però non facciamo i moralisti. Indubbiamente bisognerà andare a fondo e capire cosa sta succedendo, non solo al Barcellona ma in tutta l'Europa dei ragazzi, del mercato dei ragazzi. Grazie Mau. Ciao. A voi, ciao. Ciao Maurizio Crosetti, sei tornato Pierluigi? È ricaduto? Sì, ero caduto, cioè mi sentivo ma non potevo parlare, che forse poteva essere un'opportunità per la trasmissione, però giuro che... C'è un messaggio che mi fa impazzire, di cui voglio che tu mi parli dopo la borsa, è questo. Vai. Luca, cattivissimo Luca da Perugia. Volevo dire a Pardo che Ibra l'altra sera è stato determinante come sempre quando conta. Il Paris Saint-Germain può quindi sperare di vincere la Champions visto l'infortunio. Luca è cattivissimo e sta antipatico. Perché dice queste cose, poi le commenti tu dopo la borsa. Al 40esimo, attenzione a Pirlo, si avvicina a Giovinco, vediamo se opterà per il cross. Tocco corto per Marchisio che si infila, Marchisio la mette all'indietro, pallone che rimane lì, attenzione Murato, Bonucci, rete Bonucci porta in vantaggio la Juve nella mischia finale. Tutti convocati. 800240024 è il numero verde. Adesso cominciamo a parlare anche con voi naturalmente, ma da lunedì avremo un sacco di tempo, ogni giorno 2 ore dalle 14 alle 16, quindi keep in touch Pardo, sei? Pierluigi? Non c'è? Eccolo qua. No, devi rispondere a Luca da Perugia, perché... Allora, Luca da Perugia, dico che mi sembra che ci sia, a proposito di Ibrahimovic, che a proposito di Ibrahimovic ci sia un eccesso di critica, nel senso che comunque poi i numeri di quest'anno sono 10 gol in Champions League in 7 partite e mezzo, e questo insomma mi sembra indiscutibile. Cioè, ha fatto 10 gol fin qui? 10. Il Paris Saint-Germain in questo momento per l'attaccante che è Cavani potrebbe non risentirne più di tanto, perché Cavani giocherà a punta centrale, quindi abbiamo visto molto sacrificato l'altro giorno quando è uscito Ibra, è entrato Lucas che con le sue accelerazioni sono eccezionali, Cavani ha dato un grande contributo, quindi secondo me in assoluto questo discorso ci può stare. Non lo accetto però come critica pregiudiziale nei confronti di Ibra, perché secondo me Ibra è un grande giocatore, non si è trovato nella stagione giusta per vincere la Champions e quindi non è solo colpa sua, e secondo me in generale insomma sta facendo la grande Champions, quindi dai, non merita 10 gol, ma ha fatto 10 gol fin qui, certe volte ha preso per i capelli la sua squadra, ma come fa sempre, ma anche direi strutturalmente per il suo modo di giocare, l'ha presa per i capelli, l'ha fatta vincere. Ora io dico che sono molto arrabbiato con Luca da Perugia che scrive queste cose, anche con la sfiga cosmica, perché insomma in questa stagione, in questo momento, farsi male, vabbè, vuol dire che Ibra ha davvero bisogno di un esorcista dalle grandi orecchie. Perché... Non è come diceva ieri mattina con voi in aeroporto, non è il suo torneo, no? La sensazione così esoterica è che va bene, sia, no? Così come Torres non ha mai vinto il campionato, ha vinto due volte il mondiale, una volta l'europeo, la Champions League, e penserà che vinto lo scudetto non è il suo trofeo nel caso di Ibra, con la differenza però che la Champions League onestamente è un torneo più liquido, come piace dire a me, no? Sì. Cioè che si basa anche sul fato, sulla magia di una sera, su tutte queste cose. Poi in generale, fino a quando fa, io sono d'accordo, cioè Ibra è stato per un certo periodo di tempo un giocatore che in alcune grandi partite è mancato, questo secondo me è oggettivo. In generale però dire che è uno sfigato perdente, se non riuscirà a vincere la Champions in carriera sarà stato un mezzo giocatore, io non lo penso assolutamente, è un giocatore eccezionale, è un filo dietro ai due grandissimi, ed è però in quella categoria lì, per me è quella categoria lì, ma assolutamente lì, anche secondo i primi me infatti 5 al mondo, primi, infatti, ma forse anche i primi lui è mancato spesso in qualche grande partita, questo dicevamo è oggettivo, ha un palmarès di titoli vinti rispetto ai campionati giocati che credo sia, cioè sono certo è record assoluto nella storia e tale rimarrà, però adesso secondo me stava con la maturità colmando quella lacuna lì, e cioè anche nelle grandi partite io quest'anno in Champions l'ho visto giocare e segnare con una continuità di Cristiano Ronaldo. Ecco. Guarda, ho fatto la partita l'altro giorno, ho i numeri aggiornati in tempo reale, non so quanti minuti abbia giocato l'altro giorno, penso 65, lui ha fatto credo 10 gol in 670 minuti. Dai, ma di cosa stiamo parlando? Intanto Fognini ha vinto il primo set contro Ward a Napoli, quarti di finale di Coppa Davis, poi parliamo anche di questo più tardi, intanto Maurizio Caltanissetta, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, ciao Pierluigi, ciao. Allora, sì, io volevo dire la mia in merito alle esternazioni anche di De Laurentiis, perché voglio dire, io so tutta la vita con Marotta, perché come ha detto Pierluigi, è una verità di fondo, cioè non puoi entusiasmarti per tempo in scrittura del campionato. Non sento niente però, Maurì. Sento male le esternazioni di De Laurentiis, insomma, stavo parlando di tennis, battuta di uno, risposta dell'altro, okay. se possibile con un po' più di mostarda sopra. Marotta, grande ignorante, a Roma c'erano degli anni a Roma in cui vincere il derby serviva per salvare la stagione, no? Poi ci sono stati degli anni in cui vincere il derby serviva per assegnare lo scudetto, questo è successo a cavallo degli anni 2000, sì. È successo anche recentemente per assegnare la Coppa Italia, insomma cambiano le cose. Io auguro al Napoli che le vittorie sulla Juve dei prossimi anni, che ci saranno, se ci saranno, saranno vittorie realmente da scudetto. Detto questo, io non ho capito perché Marotta quattro giorni dopo evidentemente è stato infastidito da qualcosa, ecco, quindi stiamo parlando di schermaglie. Sì. Il fondo di verità nelle dichiarazioni di Marotta c'è. Poi un conto sono i dirigenti e un conto è la spontaneità ambientale, nel senso che se l'ambiente è caldo vuole esultare, vuole ma fare... Certo, ma secondo me è sacrosanto. Sì, la risposta di Luigi De Laurentiis è rivedibile però magari, Marotta grande ignorante è rivedibile. Rivedibile. Poi c'è anche andiamo proprio a Napoli, va. Già che siamo in argomento, Giovanni, e poi ti dico una roba su Toir che è arrivato oggi, ha confermato Mazzaretto. No, gli ho mandato davvero, gli ho mandato l'SMS attestandogli la mia, documentandogli la mia fiducia. Se non fosse così lo avrei esonerato alcuni mesi fa, poi ha parlato anche Mazzari. Giovanni. Salve a tutti, io manco a farla apposta, parlavo proprio, volevo parlare proprio del fratello di Calcio di Marotta. Io abito in Puglia, sono di Portici precisamente, e ve la posso assicurare che la, diciamo, la notte sembra la notte di Capodanno quando è finita la partita, e quindi praticamente io penso che abbia detto semplicemente la verità. È provincialismo il fatto che si festeggi a meno 17, e dico anche che non bisogna congiurarsi troppo del meno 17, perché alla fine potremmo arrivare a diciamo meno 25, approssimativamente saremmo sul meno 25. Vabbè, questo soltanto pessimismo cupo è un segno secondo me di maturità. La dichiarazione di questo tifoso del Napoli è un segno secondo me di maturità, cioè di non accontentarsi della piccola grande impresa estemporanea, ma desiderare ovviamente di godere alla fine, che è la cosa, sì, che è la cosa, cioè, importante. Detto questo, ripeto, siccome il calcio è passione popolare, collettiva, riflette il carattere delle persone, io non avrò mai la forza di criticare un tifoso perché festeggia troppo. Proprio è una cosa che non mi riesce di fare, perché no, secondo perché il calcio legittimo. Muore. Ma certamente. E per cui l'entusiasmo sereno, vero, la felicità che un tifoso può avere anche semplicemente per vincere un derby che non gli cambia la stagione, o per vincere una partita con la Juve che è come un derby per i tifosi del Napoli, è una cosa che dal punto di vista del tifoso va assolutamente accettata e fa parte della bellezza, certo, del calcio. Altro discorso è quando una determinata partita, parlavi di derby di Roma, e questo più volte è accaduto, ed è questo sì un segno di provincialismo. Altra cosa è quando una partita singola, come può essere un derby di Roma, è caricato di così tanti significati, come spesso accade, da farti perdere il grande obiettivo. Cioè, certe volte ti bruci nella tensione, le squadre di Roma spesso si sono bruciate nella tensione di questa partita, che alla fine è importante, è un derby, ma tre punti sono, magari perdendo di vista obiettivi più grandi e importanti. Dimmi di Toir, credo in Mazzarri, se così non fosse lo avrei esonerato alcuni mesi fa. Ho scritto a Mazzarri un SMS per confermargli il mio supporto. Alla fine della stagione rivedremo ogni cosa. Questo rivedremo ogni cosa, con Mazzarri, senza Mazzarri, rivedremo contratto, rivedremo che cosa. Mazzarri replica così. Credo che poche volte a qualsiasi allenatore capiti che a metà anno cambia una società radicalmente. Quelle poche volte che è successo, tant'è vero che la regola era proprio quella, che arriva la nuova proprietà e la prima cosa che fa è manda via l'allenatore a prescindere dal lavoro. Il presidente Toria ha pensato di fare diversamente, vuol dire che l'informazione, la mia carriera, tutto quello che ho fatto prima l'hanno messo nella situazione di fare questa scelta. Mi piace che sia lui a dirlo, perché comunque io sono un dipendente. Ti ringrazio di averlo detto, che il presidente anche stamani ha ribadito certi concetti. Siete bestiali, eh? Fognini sta giocando contro un emerito sconosciuto e tu ci informi che ha vinto primo set. Ma sei proprio ignorante, posso dirlo. Ma sei proprio ignorante. Ma altro che Marotta. Cioè, quarti, no, ma io non sono mai contenti. A quarti di finale di Coppa Davis, e non parlate di altri sport, e dico che Fognini ha vinto primo set e che sta giocando contro. Ma infatti, il contrario. Cioè, il contrario. Io non. Come diceva quello, non ho più parole, o se ce l'ho è meglio che non le dica. Ma è bello, va bene tutto, i commenti, sì, le critiche, va tutto bene. Siamo testo tutti... dell'SMS di Toira Mazzari, informa un ascoltatore, stai sereno con la faccina che ride. Cade, non stai sereno, come si diceva ieri sera. Sì. A gazebo, oggi sto facendo uno spot di Rai 3, adesso mi caccia. No, devo dire una cosa che secondo me... Io Mazzarri lo terrei. Io adesso faccio io no. E dico, io no. Io Mazzarri lo terrei. Io perché no. Secondo me, nella situazione dell'Inter, che non è una situazione semplicissima dal punto di vista tecnico in questo momento, è comunque un elemento di chiarezza. Per cacciare Mazzarri deve averne uno migliore. Allora, o non ti fidi del progetto Mazzarri, perché e ci può anche stare, pensi che lui non abbia un'idea di calcio abbastanza alta per l'Inter che verrà. Però se prendi un allenatore migliore, gli devi costruire una squadra di un certo tipo. E bisogna capire se ci sono le risorse. Allora, insomma, io lo manderei via soltanto di fronte all'alternativa veramente di grandissimo prestigio, e credo, l'ho detto mille volte, che non sia il principale responsabile di questa stagione, anche se poi il processo di crescita che era lecito aspettarsi dopo una buona partenza non c'è mai stato. No, io invece non la penso come te. Io Mazzarri lo cambierei, anche perché proprio per questa ragione: il nuovo presidente, se non si fida fino in fondo dell'allenatore che si trova lì o del gruppo di lavoro che si trova lì, è giusto che lo cambi. Io non riesco a leggere questo grande feeling tra Mazzarri e il proprietario indonesiano. Non mi sembra che quest'anno si sia cominciato a costruire qualcosa, dunque non lo so, io proverei un'altra strada, eventualmente scelta dal nuovo proprietario. Senti Pier, ci sentiamo lunedì, allenati. Quando vuoi. Allenati, due ore soltanto, tanta infatti roba. Sono altamente deluso, signor Pardo. Attento, signor Pardo. Ciao signor Pardo. Ciao. Strade, Roberto dalla provincia di Olbia, resti lì, eh. A proposito, voglio rispondere a Kevin che mi scrive: quando parliamo dell'Emporio Armani e dai basta con queste chiacchiere della novella 2000. Kevin, ne abbiamo parlato ieri, ospite di Vio Proli, presidente dell'Emporio Armani, che devo fare? Radio on demand, va bene. Tutti convocati. Allora Roberto, lei sa chi è Fognini, vero? Sì. Sa cos'è la Coppa Davis? Sì, più o meno. Quarti di finale, bene, Italia 1, Gran Bretagna 0, primo set, vinto da Fognini, 1-0 secondo per Ward, l'avversario britannico, dica. Sono contento, Fognini ha un po' qualche limite caratteriale, però se riesce a indirizzarsi nel momento, nel punto giusto, capisce sì, che deve arrivare in fondo alle gare senza nervosirsi troppo. Talento pazzesco, non può diventare un bravo tennista. Dunque niente, allora io volevo innanzitutto fare i complimenti per la trasmissione, perché comunque finalmente è una trasmissione, un dibattito dove si può parlare di calcio senza frontiere, senza frontiere di calcio e altri sport. A tutti quanti voi volevo toccare due punti semplici. La prima era per quanto riguarda, dato che sono tifoso del Milan, volevo semplicemente sapere un punto di vista vostro per quanto riguarda le vecchie parole del signor Silvio Berlusconi, il presidente del Milan, che diceva che lui voleva fare una squadra che durava nel tempo, che giochi con stile, con classe, con cuore, per dare ai tifosi la sua tradizione, per dare ai tifosi rossoneri. Vabbè, questo è il manifesto, no? È il volantino. Sì. Esatto. Mi sembra che per molti anni Berlusconi l'abbia fatto, no? Sì, assolutamente, perché infatti quando sento amici, quando sento anche comunque pareri vostri di gente comunque che è esperta di calcio, dico che va bene, ha fatto le vittorie del Milan, però non è che si può stare per forza nel passato, bisogna anche, io dico questo, se una persona non riesce più, non sente più quello che purtroppo era prima, lasci che comunque che le vittorie restino comunque intatte nei ricordi, non che perché poi adesso le cose belle si ricordano, è vero che si ricordano nel passato, però non faccia in modo che si ricordino le cose sì brutte, però per lasciare ci vuole un interlocutore, ci vuole uno che acquisti, e questo è un altro punto, leggendo i giornali di oggi, sentendo quanto è uscito dalla nuova sede di Milanello fino all'altro giorno, cioè di Milanello, del Milan fino all'altro giorno, via Aldo Moro, l'indirizzo della nuova sede. Allora, oggi leggo che ci sarebbe questo Peter Lin, che è un imprenditore di Singapore, decimo uomo più ricco di Singapore, che dopo aver tentato di acquisire il Liverpool, il Valencia, l'Atletico Madrid e il Middlesbrough, è un socio tra l'altro di Mendes, di Jorge Mendes, potentissimo procuratore tra gli altri di Mourinho. Ebbene, questo Peter Lim, 60 anni, sarebbe interessato a una quota nel Milan. Ora leggo che una quota del Milan, cioè il 30% del capitale azionario, potrebbe essere in vendita alla modica cifra di 250 milioni di euro. Ebbene, io mi domando, insomma, a me sembra la ricerca di un animale mitologico, no? Dell'araba fenicio, dell'unicorno, eccetera, ma chi ti dà, anche da Singapore, da dove vuoi tu, 250 milioni di euro per niente? Perché? Chi ti dà i soldi per 30% del capitale azionario, che è ovviamente quello di minoranza, quindi non ha nessun potere decisionale. Chi ti regala questi soldi a fondo perduto? Cioè, non so se sarà, potrà essere questo LIM, potrà essere un altro, ma il discorso è: o tu vendi la proprietà della società, quindi 51%, e quindi, come ha fatto Toir, vai lì, la prendi, comandi. Anche a Toir prima avevano detto: no, aspetta, ti diamo il 48, il 49, il 45. Ho detto: no, io arrivo, metto i soldi, ma voglio comandare. Ma com'è normale, non solo nel mondo dello sport. Io mi domando se sia possibile trovare qualcuno in qualunque angolo del mondo che ti regala dei soldi, e tanti soldi, così, a fondo perduto, solo per partecipare, per essere lì, per avere abbonamento gratis e magari la suite con vista sul prato. Ma a me sembra un discorso fantascientifico questo. Poi magari arriva questo lì e mi dice: oh, io ho 250 da buttare via, dammi sto 30%, vengo a vedere le partite gratis con la mia famiglia. Non lo so se esiste l'unicorno nel mondo dello sport o nel mondo reale. Matteo, provincia di Milano, buongiorno. A proposito, chi mi dice, facci notare quando c'è un microfono davanti, ricordo il numero verde 800 24 00 24. Parità di trattamento per tutti, chi vuole intervenire interviene, chi vuole rispondere alla convocazione risponde da lunedì per due ore. Roberto, Matteo, dica. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda sul Milan anch'io. Sì. Allora, dopo Seedorf rimarrà, non rimarrà? Com'è la storia? Beh, io penso di sì. Cioè, a questo punto... Sì. Eh sì, non vedo perché, mi sembra sia stato confermato, affiancato dal tutor Galliani, i risultati hanno cominciato a far vedere un po' di luce, è stato scelto da Berlusconi, questo da tempo, aveva già un contratto da prima che arrivasse, e lo sappiamo perché è un segreto di Pulcinella, ha il contratto anche per l'anno prossimo, piace molto al proprietario. Secondo me alla fine il Milan, e posso scommettere con voi, arriverà in Europa League insieme all'Inter, perché a tutte le altre non importa nulla di fatto di andare in Europa, tutte le altre che stanno dietro, che stanno in questo momento davanti al Milan, cioè per parlarci chiaro, Parma, Atalanta, Torino, Verona, non credo siano seriamente e fortemente interessati ad andare in Europa League. Dunque io ho l'impressione che la stagione finirà così e che Seedorf rimarrà al Milan anche l'anno prossimo. Cioè, forse il peggio è passato. Non lo vuole più lei, Matteo? No, volevo fare una richiesta. Quale? Ma come mai non invitate mai Alessandro Milan in qualche vostro spazio? Alessandro Milan? Volentieri, sì. Provvederemo. Ma perché lui si sveglia molto presto al mattino, a quest'ora penso fare il riposino, ma se lo vuole lo chiamiamo. Io sono per il crossover totale, quindi posso intervenire tutti gli ascoltatori, ma anche tutti quelli che girano qui per Radio 24, compreso Roberto Scaltritti oggi in regia. Come? È molto competente. Sì, lo so, lo conosco da anni, mio amico, mio amico, conosco bene. Va bene, lo invitiamo, tanto Radio On Demand. Luigi Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Complimenti, perché avete sostituito Granzini con Pardo e va bene, tutti convocati caccia e pepe, e va bene. Quello che volevo dire, essendo di Torino, che non ce l'ho fatta, è il discorso dei Gobbi, perché veramente non sanno perdere. E questa proprio questa invidia, questo rancore di quando vieni sconfitto in questo modo, e soprattutto esultare in quel modo eclatante. No, Luigi, nota di redazione che faccio io: Gobbi sta per Juventini, per chi non lo sapesse. Oppure non colorati, come di Carlo Alvino, che è il telecronista napoletano. Sì, lo so. Quindi volevo solo dire questo, perché mi ha fatto proprio ridere. L'altro, Conte, che ovviamente non sopporto, anche se è un grande allenatore, pur bescamente, perché avrà rosicato molto di più di Marotta, però ha detto una cosa intelligente, ha detto: quando esultano così vuol dire che siamo forti, anche se poi li rosicano a matti. Però questa l'ho già detta io, scusami, però mi conferma l'autostima. Allora la pensiamo allo stesso modo su questo punto, perché è quello che ho detto io prima. Io trovo estremamente interessante e condivisibile il discorso di Conte, più di quello di Marotta. A parte il fatto che io non capisco, sinceramente, mi manca un pezzo, e cioè il motivo per cui, che è il pezzo che abbiamo sottolineato prima, il motivo per cui Marotta il giovedì sera esce con queste dichiarazioni. Cioè non riesco a capire quale sia stato fattore scatenante, non so se sia rimasto infastidito da, da quell'eccessiva esultanza davvero, ma mi domando perché il giovedì deve andare a tirar fuori questa, questa cosa. Invece io insomma sarei portato a pensarla come Luigi e come Conte, e cioè se quando vedo le squadre avversarie che giocano alla morte, che vogliono battermi, che sono, non stanno più negli stracci quando mi battono, beh, vuol dire, allora vuol dire che insomma mi sento orgoglioso, mi sento forte, mi sento figo, perché sono il più forte di tutti, mi hai battuto e adesso festeggi come avessi vinto uno scudetto. Questo è un discorso che io, che a me piace, che io condivido. 800 24 00 24, numero verde. Adesso ci fermiamo per il GR, ma vi ricordo che da lunedì non proseguiremo più per questo quarto d'ora che avremo anche oggi, ma fino alle 16. Tutti convocati. Il tempo corto di un dubbio per poterli cantare. Ogni giorno, due ore da onesti e due per il malaffare, due ore da galli e mille da zanzare. Due invece sono le ore di tutti convocati da lunedì prossimo, ogni giorno, dalle 14 alle 16. Sto leggendo una mail di un ascoltatore, si chiama Carlo, contento per le due ore, grazie, merci. Vuole sapere dove va, non tagliamo soundcheck per niente, quindi Gigi Telesforo e la sua musica ci faranno compagnia per due ore, anche in questo caso, con un nuovo format nel weekend. Allora, mi fate impazzire anche con i sillogismi. Allora, Marco mi scrive: Milan Alessandro è milanista, tu sei amico da anni di Alessandro Milan, quindi sei milanista. Io sono amico da anni di Alessandro Milan perché è un mio carissimo collega, gli voglio molto bene, è un mio amico, lavoriamo a Radio 24 da quasi 15 anni fianco a fianco e... e così è, non saprei cos'altro dire, ma ed è incredibile. Allora, Italia, mi fai sentire la TV, Roberto Scaltritti, grazie. Ancora una volta subisce l'iniziativa del suo avversario Fognini, che dopo aver avuto una palla del game e del tre pari adesso deve fronteggiare una terza palla break. E questo è un aggiornamento dai microfoni di Super Tennis in tempo reale. Ricordo, quarti di finale di Coppa Davis a Napoli, con l'Italia che punta molto sulla torsida napoletana, punta molto su un campo di terra battuta che insomma può essere nemico dei britannici. Punterebbe anche molto sulla pioggia che stamattina c'è stata, abbondante, tanto che questa partita è stata posticipata, deve iniziare alle 11.30, mentre siamo solo al secondo set con Fognini in vantaggio un 7-0 e ora, come avete sentito, deve fronteggiare un paio di palle break di Ward. Non è il torneo d'oratorio, cari ascoltatori, sono i quarti di finale di Coppa Davis Italia-Gran Bretagna e poi si tratterà anche di capire qual è la condizione del numero uno britannico, numero 8 del mondo, super tennista Andy Murray, che dovrà sfidare nel secondo singolare Andreas Seppi. Mi spiace per voi, ma abbiamo provato a cercare Alessandro Milan ma non risponde, però lo convocheremo appena possibile, ma convocheremo anche Marisoni, Nicoletta Garbone, Cruciani, ogni tanto lo convochiamo, tutti, sono tutti convocati, crossover totale, ripeto, e radio on demand. Antonio da Padova, buongiorno. Buongiorno. Senti, io volevo solo intervenire per quello che ha detto prima, ma chi ti li regala 250 milioni per niente? cioè, per niente quello che leggiamo noi, credo, ma sicuramente a livelli alti là ci saranno dei tornaconto, perché non credo che buttano dei soldi anche per fare una, per avere, certo, una piccola percentuale del pacchetto. Va bene, ma Antonio, però quante volte abbiamo sentito questo tipo di discorso? Cioè, noi non chiudiamo le porte a nessuno, ma non da parte del Milan, da parte di tutti quanti, non chiudiamo le porte a nessuno, ben vengano dei soci di minoranza, ma dove li trovi i soci di minoranza? Cioè, ma se uno mette dei soldi, vuole giocare, no? Vuole partecipare, vuole comandare, vuole fare, prendere le sue decisioni. Chi ti dà 250 per il 30%? Io dico solo che sicuramente avranno i loro tornaconti, anche perché non sono dei pinco pallini qualsiasi, sanno fare i loro conti. Questo voglio dire. Ma infatti non abbiamo mai visto uno di questi che entra come socio di minoranza. Io non me ne ricordo. Si ricorda qualcuno? No, per carità, ma se questo dovesse entrare anche come socio di minoranza, sì, però chissà. Ma sì, ma poi si leggono anche altri nomi che abbracciano l'intero est del mondo, dai capitani russi, Gazprom, a questa campagna che Barbara Berlusconi comincerà a fare a Dubai, poi viaggi in Oriente, manco Marco Polo. Però voglio dire, quanti ne abbiamo visti? Lei ha ragione, sarà sotto dell'altro, io questo altro non lo so, ma in fondo non mi interessa nemmeno. Quello che dico io invece, discorso molto terra a terra, cioè quante volte abbiamo visto in una azienda, nello sport a maggior ragione, entrare un socio di minoranza, cioè uno che porta dei soldi, che ti dà dei soldi accontentandosi di che ne so, di andare a vedere le partite gratis, di presenziare a consiglio di amministrazione? Ma quanti ne trovi? Lo stesso discorso vale per la storia dell'azionariato popolare, cioè è una forma, soprattutto in Italia, è una forma di partecipazione che dalle nostre parti non riesce ad attecchire, è molto difficile da praticare. Perché? Perché insomma devi tirare fuori dal portafoglio N euro per va bene per il Benetto Club, per un sacco di come dire, di motivi, di cuore, eccetera, però alla fine dai i soldi per far decidere agli altri, e questo è un discorso che mi sembra molto difficile possa funzionare, quindi mi permetto di avere dei grandi dubbi su questo tipo di possibilità. Michele, provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno, sono Michele. Michele. Michele Pace di Apricena. Sì. Innanzitutto vi faccio i complimenti per la trasmissione che ho scoperto da un paio di settimane. Così e poco. La trovo molto molto interessante. E dov'era prima? Prima non ascoltavo altre cose, purtroppo. Senta, io volevo intervenire sul problema dell'Inter. Secondo me la colpa non è di Mazzarri, al contrario, a Mazzarri bisogna dare tanta fiducia. E chi ha costruito la squadra? No, ma sa la colpa qual è? Michele, stia lì. Sa la colpa di chi è? La sa? La colpa è dei dirigenti, di alcuni dirigenti tipo Branca. Ma non dei dirigenti, Ausilio. Michele, stia lì, le faccio sentire di chi è la colpa. Da un momento in poi ho smesso di commentarle, ho cercato in tutti i modi di non commentarle più. Ditemi voi, qualsiasi addetto a lavori, cosa avrebbe dovuto fare davanti a certe cose evidenti, che siete voi però che le potete sottolineare, come l'avete vista, come le vede il pubblico. E addirittura ultimamente sono riuscito a dire ai ragazzi: non pensiamoci, noi le partite si possono vincere proprio senza niente, e pensando che anche se ci fanno un fallo noi bisogna andare oltre per farne di più, fare un gol su azione su un altro modo, senza pensare che ci sia. Quindi non ci pensiamo più. Poi se un giorno dal regolamento ci sarà, ben venga, se no punto. Capito, Michele, di chi è la colpa? Degli arbitri? Sì, vabbè, ma diciamo in parte, perché secondo me Mazzarri, cioè, si è trovato in una situazione particolare, è cambiata la proprietà e quindi è stata costruita una squadra che io... Ecco, il problema secondo me dell'Inter non è tanto per quest'anno, perché bene o male alla fine riuscirà a conquistare l'Europa League. Il problema è delle certezze per gli anni futuri. Cioè io non vedo giocatori, se vogliamo entrare nella Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni, diciamo sì. Così, ho delle certezze, ecco. Ma infatti, ma guardi, tranne Hernanes, tranne il portiere, tranne Palacio, e ci metto il punto interrogativo su Guarin, Guarin il punto interrogativo, però Michele, il punto interrogativo è diventato esclamativo nel momento in cui gli hanno prolungato il contratto, quindi se prolunghi il contratto a un giocatore o lo fai per monetizzare questo contratto, ma non mi sembra il caso di Guarin, o perché pensi che sia un giocatore funzionale a un progetto di ricostruzione. Lei ci ascolta da pochi giorni, ma noi, almeno io un sacco di volte ho detto che il primo acquisto che avrei fatto fosse stato in Toir sarebbe stato quello di un mio plenipotenziario calato nella realtà italiana, molto competente. Vogliamo fare un nome? Sabatini? Non lo so, in questo momento secondo me è l'MVP, e questo l'ho detto ieri, dei dirigenti calcistici italiani. Con tutto rispetto per Ausilio Branca e tutti quanti, tutti quelli che ci sono stati o che ci saranno, però insomma mi sembra che così ci sia ancora un pizzico di confusione societaria. Alessandro D'Alecco, buongiorno. Sì, dottor Genta, buongiorno. Buongiorno. Io sono un tifoso milanista un po' arrabbiato, anzi un po' incazzato, se sì. Si può dire per radio, però non lo so. Beh, ormai non si può dire, ma abbiamo detto, quindi va bene. Mi scuso perché è la prima volta che intervengo, ma insomma io non ho capito come mai Berlusconi, perché non vende il Milan, ecco, cioè, c'ha gli arabi, c'ha i russi. C'è la possibilità, qualche sceicco, qualche... Io ti stavo aspettando, ma cosa credi di prendermi in giro? Ciao grande Carletto, ciao a tutti i convocati, come state? Proprio oggi che non ho la voce, ma... Ciao Carletto. Come stai? Alessandro, bene, Milan, bene. Signore e signori, ma no, ormai siamo alla radio on demand, no? Qui chiedono, c'è chi vuole Barisoni, c'è chi vuole te, Alessandro, mio amico, cioè mio carissimo amico, io lo voglio sempre, e quindi adesso lo cerco, poi mi hanno detto che non riuscivano a rintracciarti, e io ti convoco anche tutti i giorni. Senti, ma questa storia di... Secondo te Barbara Berlusconi riesce a trovare uno che gli regala 250 milioni in giro per il mondo? Ma secondo me, secondo te Carletto, adesso obiettivamente, uno entra nella proprietà del Milan con il 20%? 30%. Sì. Ma uno sì. Se prende una società come il Milan vuole comandare, no? Vabbè, normale. Questo non come il Milan, come l'Inter, come la Cavese, come chi vuoi tu. Cioè... Ti pare normale che uno prende una quota di una società importante come il Milan e non decide perché non è il plenipotenziario? Deve avere il 50% più uno, no? Come è normale, no? Anche con Toir ci avevano provato. Ho detto, aspetta, vieni, ti diamo il 49%. Ragazzi, bambole, non scherzate, va bene che vengo da Giacomo. Che vuol dire? Abbiamo bisogno di soldi, ce esatto. Le presti un po'. Sì, no, ce le regali un po'. Il che è diverso. Senti, da lunedì 2 ore ho bisogno di te, eh? Quindi non. Ma io non quando vuoi, Carletta, tu lo sai, per me il calcio è il Milan, poi peraltro, quindi quando vuoi. Perché c'è anche uno che ha fatto un sillogismo, ma te lo ricordi? Studiando filosofia, cioè ha detto: allora, Milan ti fa per il Milan, Alessandro Milan ti fa per il Milan, tu sei grande amico di Alessandro Milan perché l'hai appena detto, quindi tu sei milanista, hai capito? Cosa fa? Hai capito? Sono grandissimo. Ciao Ale. Comunque Carletto, io dico solo questo, il sì. Milan non deve andare in Europa, per cadere fino in fondo, perché solo dalle ceneri si può risorgere. Se si va in Europa è la fine. E invece secondo me ci va, insieme all'Inter. È un disastro però. Ciao Ale. Ciao. Ciao Alessandro Milan. Ciao anche a tutti voi, ci sentiamo lunedì. 2 ore. Da lunedì, 2 ore. Dalle 14 alle 16, ogni giorno. Franco Piantini, datore di questo programma, Roberto Scheratritti, regia. Ciao a tutti. I want to ride my bicycle. Mi ricordo 24 ore di tempesta ormonale, proprio, sì. Me lo ricordo precisamente. A un certo punto con le biciclette inseguivamo, cioè delle cose anche al limite, secondo me, del penale. Ma una roba, a Copenaghen era... Beh, mi hanno parlato molto di Peruisi, Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?